Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Voci di uno scandalo simile che toccherebbe anche la BMW oltre la Volkswagen. Il titolo in borsa perde l'8,8%. Intanto sarebbero stati manomessi i test sulle emissioni anche in Europa, secondo il governo tedesco. Riforme costituzionali, il Senato letteralmente in panne per gli 82 milioni di emendamenti di Calderoli che andrebbero teoricamente esaminati tutti. Riunione dei capigruppo per capire come procedere. Oltre 300 le vittime nella calca durante il pellegrinaggio alla Mecca, centinaia i feriti. Ora in attesa negli Stati Uniti per il Papa, che tra poche ore parlerà al Congresso americano, poi il Pontefice partirà per New York. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono come sempre Simone Spezia e partiamo anche oggi dalla vicenda Volkswagen, perché ci sono delle evoluzioni che riguardano non solamente Volkswagen appunto ma anche BMW, come vi dicevamo nei titoli. Il titolo in borsa in questo momento perde l'8,8%. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. E che cosa sta succedendo? Ma è dunque che stamattina la Bild Zeitung ha scritto che anche un modello BMW, la X3, dimostrerebbe nei test diciamo su strada condotti dall'ICCT, cioè la struttura che è all'origine anche dello scandalo Volkswagen, che ha effettuato i test poi trasmessi negli Stati Uniti. In questi test, dicevo, questo modello della BMW avrebbe emissioni di ossidi di azoto superiori di 11 volte alla norma. La BMW ha risposto che comunque nei suoi modelli in vendita in Europa non c'è comunque alcun software che riconosce i cicli di test e quindi è in grado di attivare determinati sistemi, come nel caso di Volkswagen. Quello che probabilmente è successo ed è vero è che semplicemente i modelli di BMW, ma credo come altri costruttori finora non emersi, sono tarati per andare bene nei test, poi in condizioni reali emettono molti più gas tossici, ossidi di azoto e altri materiali di quanto previsto dalla norma. È un po' questo diciamo la sostanza degli scandali che stanno emergendo in questi giorni. Come su Sole 24 Ore abbiamo un'intervista oggi a un altro esperto che confermava, sempre di questo istituto, che sono 12 modelli di 6 case diverse che nei loro test sono rimasti in condizioni reali molto al di sopra dei limiti. Senti Andrea, allora il punto per quanto riguarda quello che può succedere lo vedremo nelle prossime settimane, immagino. Ti vorrei però adesso riportare un attimo su Volkswagen in sé. Tra un attimo sentiremo un servizio dedicato ai riflessi italiani di tutto questo, perché ha parlato anche l'amministratore delegato in Italia rispondendo parzialmente al ministro dell'ambiente Galletti, che come abbiamo raccontato aveva parlato della possibilità di bloccare la vendita delle Volkswagen. Invece ti vorrei portare più in generale sul futuro dell'azienda, perché ieri appunto ha lasciato Winterkorn l'amministratore delegato, tra l'altro con una liquidazione notevole che sta facendo molto discutere. Che cosa può succedere secondo te nelle prossime settimane? Nelle prossime settimane Volkswagen ha iniziato adesso un percorso di svolta che è partito dalle dimissioni di Winterkorn. Domani dovrebbe esserci la nomina del nuovo amministratore delegato, domani verranno annunciati anche dall'azienda i nomi dei primi responsabili e cadranno altre teste, c'è scritto esplicitamente nel comunicato di ieri. Quindi Volkswagen è intenzionata per quanto possibile a cercare di fare pulizia al proprio interno il più in fretta possibile. Winterkorn ha ribadito ieri che non era colpa sua, ma si è assunto la responsabilità, e quindi quello che potrà succedere è un graduale diciamo ritorno alla normalità, salvo questi problemi che hai citato prima, che incombono sulla testa della nuova dirigenza, e cioè quanto è grave la cosa anche in Europa e se in Europa potranno esserci dei rischi di multe come in America. In Europa, per quello che ne ho capito io, la situazione è più sfumata, cioè non ci sono multe esplicite previste per questi casi, cioè non ci sono state delle quantificazioni a priori e le norme sono meno restrittive, quindi secondo me in Europa il rischio è minore, salvo ovviamente il discorso della reputazione, quindi dei danni dell'immagine della marca rispetto ai consumatori. Ma anche qua è chiaro che se dovessero emergere, oltre a quello di BMW stamattina, altri nomi di costruttori che comunque pur senza trucchi illegali alla fin fine emettono più sostanze nocive di quanto è permesso, si rivelerebbe un problema più di sistema che non della singola Volkswagen. Quindi paradossalmente direi che Volkswagen, che il danno d'immagine, lo scandalo potrebbe avvantaggiare. Il danno d'immagine sarebbe in qualche modo annullato. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore, il punto sull'Italia nel servizio. I nuovi veicoli Volkswagen venduti in Italia montano motori diesel Euro 6 che rispettano la normativa europea sui gas di scarico. Ad assicurarlo è l'amministratore delegato di Volkswagen Italia, Massimo Nordio. Sugli altri motori diesel sono in corso verifiche, spiega il manager rispondendo al ministro dell'Ambiente Galletti, che nei giorni scorsi aveva chiesto chiarimenti. Sono particolarmente felice che la nostra sia una delle società nel mondo più rispettose dell'ambiente, sottolinea invece il presidente di FCA John Elkann, commentando lo scandalo che ha travolto la casa automobilistica tedesca. Dal fronte sindacale interviene invece Maurizio Landini. Quello che è successo alla Volkswagen è una cosa enorme, una situazione che fa emergere la difficoltà di una riconversione vera del settore dell'auto, sottolinea il segretario della FIOM, secondo il quale processi di questa natura non possono essere lasciati soltanto alle imprese perché, a suo giudizio, il mercato da solo non è in grado di regolare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su tutto questo torneremo nella seconda parte della trasmissione. Nel frattempo vi do conto anche di qualche dichiarazione che arriva dal presidente Fiat Chrysler, John Elkann, che dice sulla vicenda Volkswagen nello specifico: non commento, quello che è avvenuto è molto grave, vedremo di capire meglio dalle indagini. Il caso non cambia la linea di consolidamento di Fiat Chrysler, e aggiunge Elkann, Fiat Chrysler è tra i produttori più rispettosi dell'ambiente. Come dicevo, torneremo sul caso Volkswagen e sul caso anche BMW a questo punto tra poco. Pensioni ed esodati al centro degli interventi alla Camera dei Ministri Padoan e Poletti. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo allora dal capitolo degli esodati. Il governo ha confermato la volontà di trovare una soluzione già nella prossima legge di stabilità. Una soluzione, hanno chiarito i ministri Padoan e Poletti, che dovrà essere definitiva, passando attraverso l'individuazione delle risorse necessarie e recuperando quelle pregresse e non utilizzate, con un vincolo però: il rispetto degli obiettivi programmati in termini di finanza pubblica. E l'audizione in Parlamento è stata l'occasione anche per fare chiarezza sul numero della platea degli esodati: 121.500 le domande all'INPS, 83.400 le pensioni liquidate. Altro capitolo poi, Simone, quello delle pensioni. Padoan e Poletti hanno confermato la volontà di Palazzo Chigi di intervenire sulla riforma Fornero, favorendo a certe condizioni alcune forme di flessibilità in uscita. Anche qui sarà la legge di stabilità ad occuparsene, ma a precise condizioni: la compatibilità con i conti pubblici. Ascoltiamo allora proprio su questo il ministro dell'Economia Padoan. L'aumento dell'età di pensionamento è parte di un insieme di misure volte a salvaguardare l'equilibrio dei conti pubblici sia nell'immediato sia nel medio-lungo termine, a rendere stabile nel tempo il sistema previdenziale. Ogni cambiamento va attentamente valutato sia per le implicazioni sui saldi pubblici sia per le conseguenze sulla credibilità dell'impegno del governo ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico, sia per valutare le implicazioni sul processo di riduzione della pressione fiscale e di sostegno alla crescita. Vincenzo, tra l'altro, a proposito di condizioni economiche dell'Italia, oggi sono arrivati una serie di dati interessanti, no? È così: giornata di dati relativi all'industria, che vede il fatturato in calo dell'1,1% a luglio rispetto a giugno, ma in aumento del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2014, grazie soprattutto, segnala l'Istat, all'incremento delle vendite di beni strumentali sul mercato interno. Sempre a luglio poi ordinativi in crescita dello 0,6% mese su mese e ben del 10,4% rispetto ad un anno fa. A correre è la fabbricazione di mezzi di trasporto, più 61,3%, bene gli autoveicoli con gli ordinativi che salgono del 31,2%. Infine, Simone, il commercio con il dato sui consumi in crescita di quasi il 2% in un anno. È tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Veniamo ai problemi dell'attività parlamentare, perché sembrava quasi un gioco quello di Roberto Calderoli, la presentazione di 82 milioni di emendamenti, ma in realtà a termini di regolamento c'è qualche difficoltà a sorpassare questo problema per quanto riguarda la riforma della Costituzione. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Infatti è in corso la capigruppo al Senato per sciogliere il nodo degli 85 milioni di emendamenti presentati da Roberto Calderoli ed è scontro tra il senatore Reghissa e il presidente del Senato Pietro Grasso. Calderoli consiglia a Grasso di leggere il regolamento di Palazzo Madama, secondo il quale non c'è il limite al tetto degli emendamenti, pertanto tutto ciò che è consentito si può fare. Tra però le indiscrezioni di queste ore, il nodo della firma spunta. Infatti gli oltre 80 milioni di emendamenti devono essere firmati uno ad uno, altrimenti decadrebbero, cosa che Calderoli non ha fatto. La seduta poi a Palazzo Madama in questo momento è sospesa per la conferenza appunto dei capigruppo. Stamattina però è stata bocciata la richiesta delle opposizioni che l'aula non passasse all'esame degli articoli sul disegno di legge costituzionale per rimandare il testo in commissione. Il voto è stato respinto grazie al nuovo asse tra maggioranza e verdiniani e prima del voto c'è stata anche bagarre in aula per la presenza dei cosiddetti pianisti, ovvero i senatori che votano per gli altri che sono assenti. Il Movimento 5 Stelle poi ha depositato un esposto alla questura sulla compravendita dei senatori, mentre ovviamente difende le riforme il ministro Boschi, che contrattacca sull'ostruzionismo. Noi crediamo nelle Camere e non in un algoritmo. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito e rimarremo in contatto con te, vedremo se in tempo per la fine della trasmissione sarà finita la conferenza dei capigruppo e avranno deciso come emergere da questa ondata di emendamenti. Noi ne abbiamo parlato nel frattempo con un costituzionalista. Solo per stamparli tutti in duplice copia, come richiede il regolamento, ci vorrebbero più di 800 tonnellate di carta e qualche secolo di lavoro per esaminarli. Per produrli invece bastano pochi click, perché grazie a un programma informatico chiamato Article Spinner, da un testo base si possono ricavare decine di migliaia di varianti, cambiando o spostando la punteggiatura e sostituendo le parole con termini simili. Così il capogruppo della Lega Nord, Roberto Calderoli, ha messo sotto scacco Palazzo Madama presentando 85 milioni di modifiche alla riforma costituzionale che ridimensiona il ruolo del Senato. Per uscire dall'impasse c'è la regola del canguro, spiega Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia. Fare una votazione unica ed unitaria sulle parti comuni degli emendamenti, il cui voto positivo determina la decadenza automatica di tutti quegli emendamenti successivi. E questo strumento è uno strumento che naturalmente va utilizzato in termini evidentemente ormai informatici, vista la mole, quindi bisogna innanzitutto ricostruire lessicalmente la costruzione di questi emendamenti e rintracciare le parti comuni e iniziare a votare su blocchi di parti unitarie. Ma anche così i tempi per accorpare e votare i milioni di emendamenti sarebbero lunghissimi. L'unica via sembrerebbe quella del buonsenso, quindi trovare un accordo politico, continua Clementi. Si possono e si devono utilizzare tutti gli strumenti che possono consentire la riduzione a razionalità, dove la razionalità non ha un numero preciso, ma certamente non si misura in termini di milioni di emendamenti, per far sì che si riconduca alla razionalità della politica e non della meccanica o degli algoritmi, quello che propriamente una scelta politica. E con la politica si dovranno affrontare molto probabilmente anche i 62.000 emendamenti presentati da SEL, i 1.173 di Forza Italia e qualche centinaio di Movimento 5 Stelle e Fittiani. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso con il pellegrinaggio alla Mecca e la morte di centinaia di persone. È in continua crescita il numero di morti e feriti causati dalla ressa dei pellegrini giunti da ogni parte del mondo a Mina per visitare la Mecca. L'incidente è avvenuto mentre i fedeli si accalcavano per il rituale chiamato la lapidazione del diavolo, che prevede il lancio di pietre contro un muro. Sono oltre 2 milioni i musulmani giunti in Arabia Saudita per celebrare la festa del sacrificio, una delle più importanti ricorrenze religiose del calendario islamico. Durante tali giorni, definiti dalle sacre scritture di letizia, i credenti sono chiamati al pellegrinaggio che consiste nell'attraversare la pianura che separa Mina dalla città santa che ha dato in Natalia Maometto. Incidenti di questo genere non sono nuovi durante questa ricorrenza e il governo saudita aveva già dispiegato sul territorio un numero ragguardevole di agenti e membri della protezione civile. Al momento sono oltre 4.000 gli uomini impiegati nelle operazioni di soccorso. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla visita del Papa negli Stati Uniti. Il Congresso lo ascolterà in sessione congiunta quando, in Italia saranno le 15:20, Francesco interverrà, primo Papa nella storia, a farlo. Un'altra occasione per il Pontefice per tenere un discorso politico dopo che ieri lo staff del Presidente ha tirato un sospiro di sollievo. Non ci sono state infatti le temute bacchettate su temi come la difesa della vita, l'aborto, la famiglia. Il Papa ha deciso di tenere un'altra linea e l'intesa con Obama è stata totale. Oggi al Congresso Francesco con ogni probabilità si soffermerà su temi altrettanto a lui cari, come la disuguaglianza economica. Nel pomeriggio italiano, le 17:15, poi incontrerà proprio i senza tetto della città, in un paese, ha ricordato ieri, in gran parte edificato da famiglie come la sua di emigrati. In serata Francesco partirà alla volta di New York, dove domani tra l'altro parlerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, un punto sul calcio dopo la giornata di campionato di ieri. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Ciao Simone, diciamo che l'Inter si candida seriamente a diventare già la padrona di questo campionato, per carità, uso un po' di enfasi, però 5 vittorie consecutive ottenute a volte anche in modo senza incantare ma con grande concretezza, grande cinismo, e in vista domenica sera lo scontro diretto con quella che è la seconda in classifica attualmente, la Fiorentina a quota 12 punti, ore 20:45 San Siro. Direi che il regalo più bello del calendario non poteva farcelo, anche perché l'antipasto sarà quel Napoli-Juventus che sabato ha sempre alle 20:45 ha già il sapore di sfida da ultimo verdetto, perché chi dovesse perderla soprattutto sembrerebbe già tagliato fuori dai giochi che contano. A proposito di Juventus, periodo sicuramente particolare quello dei 4 volte campioni d'Italia, che perdono un altro giocatore in vista di Napoli proprio di questi istanti. Diciamo la notizia che non ci sarà Lichtsteiner per un problema respiratorio, quindi già problemi di numeri e di classifica non mancano ad Allegri, ma è una rosa sempre più esigua, falcidiata dagli infortuni. In casa bianconera, da notare infine le parole del presidente della FCA, John Elkann, che ha detto: la Juventus sta crescendo come squadra, se vuol difendere il suo titolo lo faccia in fretta. Grazie al nostro Dario Ricci, e di sport come sempre si tornerà a parlare a partire dalle 14 in tutti i convocati. Noi adesso, come si diceva, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi ci ritroviamo, torneremo a parlare della vicenda Volkswagen, in realtà più che altro di una lettera partita dalla Procura di Roma e arrivata a 3 ministri su una vicenda che non riguarda solo Volkswagen ma riguarda il tema delle emissioni. Torneremo sul tema dei certificati medici facili e poi parleremo anche del nuovo film di Muccino, perché la nostra Marta Cagnola è andata a vederlo e ci racconta un po' come l'ha trovato. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Le notizie principali di oggi sono stati sarebbero stati manomessi dei test, o meglio, ci sono voci di emissioni eccessive anche per la BMW X3, il titolo dell'azienda perde circa l'8%, e per Volkswagen sono stati manomessi i test anche in Europa. Questo è quello che riferisce il governo tedesco. Pesante tutto il settore auto in Europa, Fiat Chrysler perde il 4,7%. Sulle riforme costituzionali il Senato in panne per gli 82 milioni di emendamenti di Calderoli che andrebbero esaminati tutti. Riunione dei capigruppo per capire come procedere, una riunione ancora in corso, vi aggiorneremo se finirà in tempo. Oltre 300 le vittime nella calca durante il pellegrinaggio alla Mecca, sono centinaia i feriti. E c'è folla in attesa già da ore per il Papa che intorno alle 15 parlerà al Congresso americano, poi il Pontefice partirà per New York. E siamo di nuovo al tema delle emissioni delle auto, per una vicenda che in realtà non riguarda solamente Volkswagen, ma anzi riguarda tutte le auto che ci sono in Italia, riguarda i filtri antiparticolato e una lettera inviata dal procuratore capo di Roma a 3 ministri, la quale ha riferito oggi il Fatto Quotidiano, approfondito un po' la nostra Raffaella Calandra che è in studio con noi. Raffaella. Sì Simone, si tratta di un'inchiesta partita 7 anni fa a Terni contro 5 dirigenti dirigenti del Ministero dei Trasporti. Arrivata poi a Roma è diventata l'ipotesi di una beffa ai danni dei cittadini. Una beffa sul diesel anche in Italia come negli Stati Uniti. Porta la data dell'8 luglio la lettera di cui parlavi, che il procuratore Pignatone ha mandato ai ministri dell'Ambiente, dei Trasporti e della Salute per denunciare come i famosi filtri antiparticolato, quelli cioè divenuti obbligatori per ridurre le emissioni, non solo immetterebbero nell'aria altre sostanze nocive, ma avvierebbero una trasformazione che rende le polveri sottilissime, scrive Pignatone, non misurate dai dispositivi in uso, ma, avverte il capo della procura, ben più nocive. L'ipotesi degli inquirenti è che la normativa sui filtri sia stata scritta in sostanza per favorire quei sistemi antiparticolato a scapito di altri, favorire cioè Pirelli Eco e Iveco, e il sospetto degli investigatori, a discapito di altri come la veneta Dukic dei Dream, che ha sviluppato un dispositivo differente. A fronte di questa ipotesi il PM ha però chiesto l'archiviazione, perché il tutto si sarebbe sviluppato per un difetto normativo e non per una cospirazione contro questa azienda vicentina, che ora però si oppone all'archiviazione e ci dà altri elementi investigativi. Il titolare, Anna Dukic. Sono 7 anni di lotte, 7 anni in cui tantissima gente ha messo in dubbio la validità del nostro prodotto. Io sono stata convocata da Pignatone 3 giorni fa e mi ha consegnato a sue mani la famosa lettera che ha indirizzato ai 3 ministri. Lui ammette che tutto quello che noi avevamo detto è giusto, ma che però, essendo la legge fatta male, non ci sono i presupposti per intervenire con i funzionari del ministero. Mentre voi ritenete che il tutto sia avvenuto per danneggiare voi a favore di altri? Sì, ne ho la conferma, anche perché nella lettera di Pignatone c'è il ministro dell'Ambiente che dichiara che lui non sapeva dell'esistenza nostra. Mente, perché noi abbiamo fatto un atto di significazione notificato con atto giudiziario a tutti e 3 i ministeri, dimostrandogli tutta la dannosità dei FAP. E grazie a Raffaella Calandra. Torniamo su un tema che abbiamo toccato ieri intervistando il sindacato dei medici, che ieri stesso ha annunciato la possibilità di uno sciopero che dovrebbe arrivare all'inizio di novembre contro un decreto che impone lo stop ad una serie di esami cosiddetti inutili e che costano un bel po' di soldi allo Stato. Sono valutati al Ministero della Salute complessivamente in 13 miliardi, il taglio che si prevede di fare per il 2015 è di 2,3 miliardi. Tra le altre cose, che cosa c'è? C'è per esempio una stretta sulle prestazioni odontoiatriche, ossia dei dentisti, una stretta per esempio sulle TAC e le risonanze. Saluto Luca Antonini, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova e presiede la commissione tecnica sul federalismo fiscale, e quindi di queste cose si è occupato e si occupa tantissimo. Professor Antonini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Le sembra un'impostazione valida quella del decreto? Ma molto relativamente, perché guardi, la sanità italiana, nei dati OCSE, almeno fino a pochissimo tempo fa, era al secondo posto per qualità e all'11° per spesa. La nostra sanità costa il 50% in meno di quella degli Stati Uniti, quindi è un'ottima sanità. Io credo che siano necessari interventi di razionalizzazione, però le forme con cui devono essere attuate bisogna stare molto attenti, perché si può mettere veramente in crisi questo sistema. Quando vengono previsti, per esempio, all'interno di quei 2,3 miliardi che diceva lei, tagli lineari, per esempio rinegoziare gli accordi con i fornitori riducendoli del 5%, qui si fa un danno, perché per esempio in Regione Veneto un pasto erogato da un ASL costa 6 euro, in altre regioni costa 60 euro. Se io faccio ridurre tutti del 5%, al Veneto lo metto in gravissima difficoltà e rischio di non poter erogare il servizio, all'altra regione gli ho fatto solo il solletico. Per quanto riguarda invece l'appropriatezza, qui effettivamente c'è un problema. La stima dei 13 miliardi mi sembra veramente eccessiva, però probabilmente ci sono anche in questo caso delle prestazioni che vengono erogate inutilmente, ma è il problema della cosiddetta medicina difensiva, cioè i medici hanno subito dal punto di vista della giurisprudenza un enorme ampliamento della loro responsabilità. E allora mi sembra irrazionale che si faccia solo questo provvedimento senza stabilire anche delle regole che rideterminano in modo puntuale la responsabilità dei medici. Il decreto Balduzzi aveva tentato qualcosa, ma è rimasto troppo generico. Perché il rischio, in 20 secondi, professore, è che i medici si sentano stretti. Da una parte hanno, come dire, la necessità di prescrivere per evitare di incappare in cause da parte dei pazienti, e dall'altra parte si trovano stretti da questo decreto che gli impone invece di non prescrivere o verifiche molto più puntuali. Questo è il punto. Certo, quindi stanno fra l'incudine e il martello, e lo Stato deve spostare anche il martello, non può spostare solo l'incudine, capisce? Da questo punto di vista l'ultima considerazione è la sanità è ottima, quella italiana, abbiamo regioni che funzionano benissimo e altre che funzionano male, è vero, però non si può andare con tagli generalizzati. Io mi chiedo sempre perché non è stata ridotta la spesa dello Stato centrale, perché i lavori di Cottarelli sulla spending review dello Stato centrale, dove sono parecchi miliardi di spreco, non vengono nemmeno pubblicati. Grazie, e anche questa è una buona domanda. Grazie a Luca Antonini per essere stato con noi, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova e presidente della Commissione Tecnica sul federalismo fiscale. Siamo al cinema, c'è Marta Cagnola in studio con noi, che questa mattina si è vista il film di Muccino in uscita il 1 ottobre. Marta, ciao. 1 ottobre, sì Simone, un solido film americano. Già dire così fa capire che ormai Gabriele Muccino è diventato un regista 100% americano, lontano da ogni nostro schema. Padri e figlie, film costruito per commuovere, non per stupire, non per sorprendere. È il racconto di una storia d'amore tra un padre e una figlia, raccontato su due piani: gli anni 80, l'infanzia di Katie, che ha perso la mamma e vive con il papà, geniale scrittore con problemi mentali, Katie adulta alle prese con le cicatrici della vita. Si piange, soprattutto se tocca corde sensibili. Gli attori bravi, Russell Crowe e Amanda Seyfried. Un altro film sulla paternità. Quest'anno tanti film sulla paternità. Senti, Marta, dici com'è? A me non ha stupito, ma è piaciuto. Un film solido, un film ben fatto, un ben girato, sì. Grazie. Grazie alla nostra Marta Cagnola per questo racconto. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire tra un attimo che cosa succede sui mercati e poi ritorneremo ancora una volta sulla vicenda Volkswagen. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È salito a 450 il numero delle vittime nella calca durante il pellegrinaggio alla Mecca. Scandalo emissioni, voci di coinvolgimento anche per BMW. L'amministratore delegato di Volkswagen in Italia dice: avviate le verifiche. Riforme costituzionali, il Senato in panne per gli 82 milioni di emendamenti di Calderoli. Folla in attesa negli Stati Uniti per il Papa, che tra poco parlerà al Congresso americano. Una notte in ospedale per Lichtsteiner, il giocatore juventino ha avuto un malessere con difficoltà respiratorie. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia, ed è il momento della borsa. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e torniamo al Senato, va, perché insomma il problema, ve l'abbiamo raccontato prima, sono questi 85 a questo punto milioni di emendamenti presentati da Roberto Calderoli, e si sta cercando di ragionare su come aggirare il problema, perché a votarli tutti si finirebbe, qualcuno ha fatto qualche calcolo, più o meno nel 2050. Elisabetta Fiorito, è emerso qualcosa dalla conferenza dei capigruppo o non è ancora finita? No, non è ancora finita, però intanto è emerso qualcosa. La maggioranza punta ad approvare il disegno di legge sulle riforme al Senato entro giovedì 8 ottobre. Questa infatti è la richiesta che è stata avanzata dalla maggioranza nella conferenza dei capigruppo, e anche il governo sta cercando una soluzione tecnica per poter superare lo scoglio degli 85 milioni di emendamenti presentati dal leghista Roberto Calderoli e chiudere il disegno di legge prima della sessione di bilancio. Una delle ipotesi avanzata sarebbe quella di porre una data certa di chiusura il provvedimento in aula, e poi si applicherebbe la cosiddetta ghigliottina sugli emendamenti non ancora esaminati. Cioè, poi abbiamo detto anche il nodo della firma: se non fosse presente la firma di Roberto Calderoli su tutti 85 milioni, a quel punto gli emendamenti non sarebbero ammissibili. Comunque l'ipotesi è quella di chiudere entro l'8 ottobre, questa è la richiesta della maggioranza, però il presidente Pietro Grasso avrebbe risposto di votare presentare il testo entro il 15 ottobre, ma non oltre, perché proprio il 15 ottobre è previsto l'inizio della sessione di bilancio in Parlamento. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, vedremo come andrà a finire questa vicenda. Massimo Nascimbene, con direttore di Quattro Ruote, torna con noi. Massimo, bentornato. Buongiorno a voi. Allora, mi sembra che le cose si stiano estendendo notevolmente. C'è questo caso BMW che è esploso adesso con la BMW X3 e che sta facendo crollare il titolo in borsa. Siete riusciti a farvi un'idea, voi che vi occupate di queste cose, di quanto possa finire per allargarsi questo scandalo? Allora, io temo che se andiamo a guardare, ho già avuto modo di dirlo, credo anche a voi, se andiamo a guardare come vengono fatte nel dettaglio le operazioni di omologazione, non si salva nessuno, perché magari non tutti taroccheranno le centraline, ma tutti in un modo o nell'altro usano degli accorgimenti più o meno leciti per venir fuori bene in omologazione. A questo punto però, secondo me, siccome qui siamo passati da anni in cui tutti voltavano la testa dall'altra parte e improvvisamente diventiamo tutti rigidi censori, secondo me è il caso di fermare un attimo le bocce e di metterci a ragionare sul come riformare il sistema delle omologazioni negli anni a venire perché sia più credibile. Io non starei a rincorrere tutte le notizie che escono in questi momenti, che sono spesso amplificate in maniera non sempre corretta. Direi che forse è il caso di darsi una calmata, di cominciare a ragionare, perché in ogni caso sicuramente, ripeto, la Volkswagen ha barato e deve pagare le conseguenze. Sì. Sono personalmente convinto, l'ho detto più volte, che non sia stata l'unica a barare, però ripeto, si può si potrebbe anche richiedere di ripassare in omologazione tutti i modelli esistenti, però mi pare uno sforzo senza senso, perché ripeto, il nocciolo della questione sta nell'inconsistenza, nella distanza che c'è tra le procedure di omologazione e l'uso reale che si fa delle automobili. È quello il nodo da sciogliere, oltre all'assenza di un'autority europea che, a differenza dell'epoca americana, non esiste. Lo abbiamo raccontato, tra l'altro c'è uno standard comune ma 28 autority diverse che controllano. Oggi tra l'altro il Guardian riferisce di una serie di problemi proprio nei test di omologazione, tra cui misurazioni effettuate in discesa, quindi di questo stiamo parlando. Ti ringrazio Massimo Nascimbene, con direttore di Quattro Ruote, come sempre, per la tua chiarezza. Un tema che non abbiamo ancora affrontato e che affrontiamo adesso è il vertice europeo di ieri sui migranti. Hotspot attivi entro novembre e redistribuzione dei richiedenti asilo, 1 miliardo di euro per sostenere le agenzie dell'ONU operative a sostegno dei profughi. Si chiude così in piena notte il vertice straordinario dei 28 leader europei sull'immigrazione, una notte importante per l'Italia, dice il presidente del Consiglio Renzi. Che questa questione riguardava tutti, ci guardavano male, ci dicevano no, questo è un problema italiano, no, c'è un accordo e va rispettato. Oggi diciamo del vertice anche la decisione di sostenere i paesi più esposti alle crisi di Iraq e Siria, e cioè Turchia, Libano e Giordania. Il 5 ottobre in particolare il premier turco Erdogan sarà a Bruxelles, un incontro da cui molti si aspettano spiragli di tregua dei flussi migratori. A dirlo senza troppa retorica è il presidente Hollande, quando afferma che si dovrà aiutare i paesi dove i rifugiati già sono, in modo che questi restino più vicini al loro paese piuttosto che venire sino qui in Europa. Per quanto riguarda gli hotspot invece, i centri di accoglienza e registrazione dei profughi nei cosiddetti paesi di frontiera Italia e Grecia saranno operativi entro fine novembre. In questo senso Angela Merkel è intervenuta sottolineando, ad esempio, che se la Bulgaria vuole può avere hotspot pur non aderendo a Schengen. I muri non sono la soluzione, ha continuato la Merkel, perché abbiamo un problema comune e solo se stiamo insieme possiamo risolverlo. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk parla invece di momento simbolico e sottolinea che l'ondata più grande di profughi deve ancora arrivare, ed è chiaro a tutti che non si può continuare continuare come prima, dice, con porte e finestre aperte. Si pensa dunque alla creazione di guardie di frontiera europee, un punto che viene visto di buon occhio anche dal premier ungherese Orban. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è aperta la settimana della moda, ma qual è lo stato di salute del settore? Lo abbiamo chiesto al presidente onorario della Camera della Moda, Mario Boselli. Il settore moda sta bene, nel senso che noi quest'anno immaginiamo di avere un aumento di fatturato fino al 2015 del più 5%, che si somma al più 3% dell'anno scorso. Questo più 5% è effetto molto del cambio euro-dollaro, dati positivi, che hanno compensato il calo dell'esportazione nei confronti della Russia, che è il mercato più in crisi. Basta dire che quest'anno è calato da gennaio del 34%, calo che si aggiunge a quello dell'anno scorso, per cui alla fine arriviamo a una riduzione dell'export verso la Russia in due anni di circa il 50%. Questa è la fotografia attuale. Traffico, Platero, e ci ritroviamo subito dopo.